Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ti rendi conto di quanto si può essere felici vivendo così? Io ho portato per 92 giorni uno zaino che era tutta la mia vita. Ho percorso un buon numero di chilometri per allenarmi, ho aperto una pagina Facebook per dire a più gente possibile cosa avrei fatto e poi sono partito. Storie di cammini e di trasferimenti in una puntata che si intitola Da un punto a un altro. La transumanza è diventato patrimonio culturale dell'UNESCO. Quando gli animali partono per fare la transumanza, in italiano diciamo sì, dobbiamo fare la transumanza, però tra colleghi diciamo domani devo scasare. Scasare vuol dire proprio il fatto di far suonare la scasatora. Ovviamente adottiamo dei metodi, mettiamo la scasatora, la campana più grande diciamo, alla vacca, la cosiddetta cimarola, la vacca che va avanti, la vacca leader del gruppo e la vacca soprattutto che conosce la strada, quindi che guida tutta la mandria fino ad arrivare a destinazione. Abbiamo deciso di cominciare questa puntata con le parole di questo pastore in un piccolo documentario che racconta come la transumanza è diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO per introdurre questa puntata che si intitola Da un punto a un altro. È strano parlare di movimento da un punto a un altro in giorni in cui di fatto ancora è caldamente sconsigliato muoversi, in cui ancora vige l'idea che è meglio restare a casa per noi, per la nostra sicurezza e per la nostra salute. Questo però, Linee d'ombra, è un programma che racconta storie che hanno a che fare con dei confini, e per valicare i confini bisogna muoversi. Le storie hanno sempre a che fare con il movimento, tutte le storie che vi raccontiamo hanno a che fare con un passaggio, ma banalmente perché altrimenti se ognuno di noi rimanesse seduto sulla sedia della cucina di casa o sul divano di casa sarebbe difficile che accadessero delle storie. Tutte le storie cominciano quando il protagonista fa un passo al di fuori della sua zona che conosce, del mondo che conosce, e va verso qualcosa che invece non conosce. Ecco, abbiamo deciso di usare questo pezzo di questo documentario perché la transumanza, oltre a essere parte della cultura del nostro paese, rappresenta benissimo, soprattutto dei paesi di montagna ovviamente e dei paesi legati all'allevamento, rappresenta benissimo questo aspetto, quello di muoversi da un punto a un altro, per cui di norma la transumanza era doppia. Quando all'inizio dell'estate i pastori portano tuttora in montagna, in alpeggio, che sono più freschi e più verdi, le proprie mandrie per farle pascolare, poi alla fine dell'estate invece li riportano giù in pianura, in Abruzzo, dove è cominciata secoli fa, li portavano poi verso il mare. Ci sono anche, se non ricordo male, ci sono i versi di D'Annunzio, no? Che diceva proprio settembre andiamo, è tempo di migrare. Parlava proprio di quello, parlava dei pastori che lasciavano gli stazzi e andavano verso il mare, scendendo verso l'Adriatico selvaggio, se non ricordo male i versi, poi magari la ritrovo. Mi ricordo solo che la poesia si intitolava proprio I pastori. Non vi racconteremo di pastori, ma vi racconteremo di spostamenti volontari e involontari. Abbiamo due storie come sempre molto diverse tra di loro, perché la prima racconta di un viaggio appunto studiato, considerato da anni e poi effettuato da solo lungo tutto un percorso ben preciso che è la Via Francigena. La Via Francigena è quel percorso che parte da nord e arriva a sud, per l'esattezza parte dal Colle del San Bernardo e arriva fino a Brindisi, sono quasi 2000 km che il protagonista decide di compiere a un certo punto della sua vita, e come sempre succede quel viaggio in qualche modo lo cambia. E il secondo invece è una storia che arriva dal carcere di Padova e che racconta di quei viaggi involontari che sono spesso costretti a fare i detenuti, cioè i trasferimenti, quando delle volte senza una ragione, delle volte senza una spiegazione, vengono presi da un carcere in cui si trovano da una cella in cui si trovano magari da tempo, da anni, dove hanno instaurato dei rapporti, hanno instaurato delle amicizie, dove hanno delle abitudini di vita, dove magari seguono dei corsi e soprattutto dove magari sono facilmente raggiungibili dai parenti, vengono trasferiti in un carcere che magari è a 20 o 30 km di distanza, magari invece è a 1200 km di distanza, e quindi cambia tutto. Nel racconto di Giovanni, il protagonista di questa storia legata alle carcere, sentiremo come incredibilmente ogni carcere è una comunità a sé, con regole paradossalmente anche le più piccole radicalmente diverse. Ecco, oggi faremo questi viaggi. Noi ogni giorno qui a Linee d'Ombra cerchiamo di raccontarvi delle storie che vi portino un po' fuori dalle vostre case, fuori dalle vostre abitudini, e vi portino sulla strada. In questo caso vi portiamo prima lungo un percorso che dura 3 mesi in mezzo alla natura, e poi vi portiamo in un carcere per capire come si vive e soprattutto come si vivono i trasferimenti in posti come quelli. E quindi mettetevi comodi, noi cominciamo. Benvenuti a Linee d'Ombra. Nel 2018 compivo 50 anni di lavoro. Sono un artigiano che mediamente ha lavorato 12 ore al giorno, spesso anche sabato e domenica. Insomma, una professione che è riuscita a impegnarmi per 75 anni in solo 50 anni. Ma non mi lamento di questo, perché il mio impegno lavorativo è stato anche la mia più grande passione. Quindi, in occasione di questo compleanno un po' particolare, avevo deciso di farmi un regalo, che so, una coccola speciale che mi alleviasse di tutti questi anni di un lavoro che non mi avevano mai permesso di dedicare spazio al mio fisico, fosse solo anche una passeggiata. Ho iniziato ad immaginare qualche cosa che mi permettesse di avere spazi liberi per pensare liberamente, senza condizionamenti alcuni, di stare in un ambiente a me favorevole, il più naturale possibile e con tanto tempo libero a disposizione, tale da non avere più l'esigenza di consultare sempre l'orologio. La voglia di provare un'esperienza nuova, pensata e organizzata solo da me, e che mi mettesse alla prova, sia fisicamente sia mentalmente, staccandomi completamente dalla mia routine quotidiana per 2 o 3 mesi. Capire quali fossero le mie vere priorità, avendo la possibilità di mettermi al centro della mia vita e di fare ciò che volevo. Ho pensato a lungo ad una idea. Mi sono passate per la mente lunghi itinerari in montani, il giro del Mediterraneo o una traversata atlantica in solitario con la barca a vela. Erano tutte delle belle idee, ma nessuno di questi progetti mi appagava. E così, passando il tempo, mi pareva sempre più chiaro che l'esigenza avuta mesi prima fosse alla fine solamente un capriccio. È molto più chiaro adesso, dopo averlo fatto, il perché l'ho fatto e perché l'ho scelto. Al momento era difficile poter scegliere un qualcosa che mi avrebbe posto al centro di questa scelta, perché fino a prima il lavoro, la famiglia, gli amici, la vita era un insieme di compromessi, non era mai una cosa mia e basta, e quindi c'era una paura sostanzialmente di dover prendere una decisione di un certo tipo che mi mettesse lì come primo, cioè che qualsiasi decisione la dovevo prendere io, che dovevo prendermi tutte le responsabilità della decisione che avevo preso e non avevo nessuno di fronte che mi potesse, come dire, sostenere. Poi un giorno, mentre stavo assaporando un aperitivo con degli amici, ho avuto l'opportunità di ascoltare il racconto di Elena, una cara amica che aveva percorso il cammino di Santiago, e come per incanto, quasi mi fosse apparsa una musa, ho messo a confronto questa narrazione con ciò che stavo ideando e tutto mi è parso chiaro. Così ho deciso che il mio progetto, che avrebbe esaudito il bisogno che avevo avuto mesi prima, sarebbe stato quello di percorrere un cammino. Elena, la mia musa, con il racconto del suo cammino, insieme ad internet, sono stati i miei compagni e ispiratori per giorni e giorni interi, sino a quando la mia scelta si è orientata sul percorrere tutta la via Francigena, dal grande colle del San Bernardo fino a Brindisi, per 1750 km, a piedi, da solo. Ho scritto su un foglio il mio obiettivo, la data di partenza, le motivazioni che mi spingevano ad intraprendere il cammino, come mi sarei sentito una volta iniziato questo percorso, durante lo stesso e all'arrivo. Inoltre, tutte le azioni che dovevo mettere in atto per poter realizzare questo mio sogno in tempi prestabiliti. Immediatamente ho visto spiegarsi davanti a me tutto il percorso della via Francigena e tutto ciò che avrebbe rappresentato per me. Più passava il tempo e più avevo la consapevolezza di avere preso la decisione giusta. Tanto che iniziavo a vedermi camminare sui sentieri, riuscivo a guardarmi da fuori, come se io fossi un'altra persona che osservava un viandante. Questo mi accadeva quasi tutte le sere e tutte le mattine a letto, prima di addormentarmi o appena sveglio. Mi sono preparato al meglio, ho letto tanti libri, tanti articoli, ho incontrato altri camminatori che mi hanno raccontato le loro esperienze. Mi sono attrezzato come dovevo per una camminata di questo genere, ho percorso un buon numero di chilometri per allenarmi, ho aperto una pagina Facebook per dire a più gente possibile che cosa avrei fatto. E poi sono partito. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Dopo questa esperienza, quando parlo con la gente, mi viene spontaneo augurare loro di intraprendere un lungo cammino solitario di questo genere. Questo perché sono certo che possa essere un modo per riscoprirsi. Capire che si può vivere per 93 giorni con uno zaino di 10 kg sulle spalle, dove al suo interno c'è tutto quello che ci può servire, quindi 3 magliette, 3 mutande, 2 pantaloni, 3 calze e 2 paia di scarpe. Comprendere a fondo che vivere in questa dimensione vuol dire non avere più paura di nessuno, essere accolti con gioia da chiunque, conoscere più persone che non quelle conosciuto negli ultimi 10 anni di vita, percepire che quando si è in mezzo alla natura la tua energia è sempre al massimo e riesci a renderti conto che tutto quello che ti circonda ha una voce e ti parla in continuazione, e infine che un cammino così concepito è facile, gioioso, istruttivo, metafora della vita e soprattutto alla portata di tutti. Stati momenti di grande paura che poi dopo sono, nel ripensare, sono diventati molto belli perché mi hanno fatto crescere molto. Ci sono stati momenti bellissimi con la natura, nei quali vedendo certi panorami, oltre a sentirmi tanto tanto tanto fortunato di essere lì in quel momento, mi hanno anche fatto piangere tantissimo. E poi, se devo dire la cosa che porto a casa, che ho portato a casa e che ho sempre nell'animo, è l'accoglienza che c'è in giro per l'Italia, che basta un sorriso e immediatamente dopo avviene un abbraccio. Io mi fermavo in giro per il cammino anche delle mezz'ore intere a parlare con la gente. A volte era per ridere, a volte si parlava di tutto così, ma il più delle volte si entrava anche in profondità. C'è gente che mi ha raccontato la storia della sua vita. Sono partito da solo, o meglio, credevo di essere da solo. In effetti, sono sempre stato affiancato dalla mia coscienza e dal mio animo. Ho parlato sempre con me stesso, sia nei momenti difficili, sia in quelli gioiosi. È stato facile? No, no di certo. Ho capito che a non essere abituati a dialogare con la propria mente, le prime volte diventa difficilissimo farlo. Ma poi è straordinariamente bello. Ho capito che uscire dalla propria zona di conforto fa sempre paura, ma dà dei risultati favolosi, tanto che ho imparato molte cose, come prendere decisioni che mai avrei preso durante la mia vita, dire di no, capire che esiste un universo che ogni giorno ti manda dei segnali e capire come coglierli. a vivere senza orologio e appuntamenti, ad accettare qualsiasi cosa mi capitasse, vedendone sempre il lato positivo. Ho imparato a conoscere tantissima gente di tutti i generi e accettarne e apprezzarne l'animo, valorizzare la semplicità di un cibo offerto o un giaciglio di fortuna, capire quanto la natura ti infonda energia, perdermi e ritrovare la strada con grande serenità, incontrare molti animali allo stato brado e capire che l'animale più pericoloso è l'uomo. Sono tornato dopo 90 giorni di vero paradiso, rendendomi conto di avere superato una linea di demarcazione fra una vita vissuta come tanti, con più frustrazioni che gioie, e la libertà di sapere quello che si vuole e dove si vuole andare, passando dalla consapevolezza che tutto questo dipende solo da te. Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music. She La puntata di oggi si intitola Da un punto a un altro, che è un titolo che sembra un pochettino una lezione di matematica o di fisica delle scuole superiori. Per andare da un punto A a un punto C si passa da un punto B, però in realtà non è per niente, diciamo, non ha la freddezza della matematica, è piena di calore questa storia, perché la storia di Maurizio ci racconta di una di quelle fasi che un po' abbiamo imparato a conoscere, quelle fasi di passaggio che hanno appunto a che fare con le linee d'ombra e con tutte le storie che ci mandate. Grazie e continuate, linea d'ombra @radio24.it. In questo caso la linea di passaggio è lunghissima, perché è lunga praticamente oltre 1000 chilometri, è una linea di 1750 chilometri per esattezza, che Maurizio ha fatto tutta. Stiamo parlando della via Francigena. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno. Maurizio, buongiorno. Ciao Matteo, come stai? Tutto bene, tutto benissimo. Senti, tu, giusto per contestualizzare un po', in questo periodaccio che cosa stai facendo? Lavori? Sei fermo? In questo periodo devo dire di essere a casa da tantissimo tempo, ma lo spirito è sempre molto alto, ho tantissime cose da fare online, sono attaccato a un sacco di Zoom, ho cambiato mestiere da quando sono tornato e sto facendo un distributore di prodotti fototerapici e quindi sono in continui Zoom di call, di riunioni, perché di fatto no. Maurizio, scusami, quindi questa, la storia che ci hai mandato, cioè la storia di questo cammino, ha veramente rappresentato una soglia da un pezzo a un altro della tua vita? Assolutamente sì. Cosa facevi prima? Allora, io ho fatto per 50 anni l'odontotecnico, okay. Che è stato casuale, perché quando ero piccolo ero un po' un asino a scuola e quindi mi hanno introdotto nella strada del lavoro, okay. Ma poi dopo è diventata una passione fortissima per me e ho avuto delle soddisfazioni straordinarie. Poi ho avuto tante altre cose nella vita, degli alti e dei bassi come succede a tutti, finché mi sono ritrovato con mia moglie attuale a gestire il mio laboratorio di odontotecnico, ma a me la voglia e la passione erano cominciate a passare. E quindi stavo, pur essendo in pensione, continuavo a lavorare, ma non ero contento per niente. E questa passeggiatina che ho fatto, questo cammino, mi ha fatto capire tantissime cose. Quando sono tornato, ho lasciato tutto a mia moglie, ho smesso di lavorare e ho ritrovato una vita piena di forza, di voglia e di passione con quello che sto facendo adesso. E mi sembra di essere ritornato ancora a 30 anni. Senti Maurizio, visto che questa cosa che tu dici è molto simile alle cose che dicono tutte le persone che hanno fatto esperienze come la tua, dal Cammino di Santiago, la Francigena, io ho un amico, figurati, che ha fatto in 3 tappe, in realtà l'ultima non l'ha ancora fatta, ma ha fatto 2 tappe, ha diviso in 3 tappe diverse, ne ha fatte 2, ce la posso fare, e tutto il cammino lungo il Danubio. Lungo il Danubio c'è una ciclabile e lui in un'estate prima e in un'estate dopo ha fatto diciamo 2/3 e gliene manca 1, e tutti mi dicono questa cosa: ho visto la vita in maniera diversa. Tu sapresti dirmi in poche parole in che cosa è cambiato, cioè in che cosa all'improvviso, diciamo, si è illuminata di una luce diversa? Guarda, io ti posso dare la mia esperienza. Certo, certo. Io sono partito da solo, ho voluto fortissimamente fare una cosa tutta per me. Dopo 50 anni in cui sei rimasto, come dire, preso da decisioni che non erano solo tue, ma ovviamente anche per il lavoro, la famiglia, mm-hmm. anche gli altri. Quindi io sono partito da solo perché volevo che fosse tutta una cosa mia, decisa da me, con tutte le responsabilità mie, senza orologio, senza niente. E mi sono reso conto in tutti questi chilometri che, uno, non ero da solo, e la persona che mi stava accompagnando, che era me stesso, l'ho cominciato a vedere in maniera totalmente diversa e ho cominciato a volergli veramente bene, perché ero veramente felice di stare con questa persona che non conoscevo così a fondo. Sostanzialmente io in questo percorso ho incominciato a vedere un po' anche tutti i miei valori, che cosa volevo dalla vita, perché quando sei solo e cammini, insomma, o pensi ai dolori che hai o al fatto che il cervello vuole farti tornare indietro, o se no incominci a pensare, e pensando, stando dentro nella natura, poi i pensieri diventano straordinari, sono facili, riesci ad andare nel profondo, ma senza voler mettere chissà che cosa, no? Cioè, è naturale. Immagino abbia a che fare con il tempo a disposizione e con lo spazio, cioè il fatto di avere lunghe giornate e come dici tu, avere di fatto natura intorno a sé. Perché, ecco, qui vado un po' più sul tecnico, ma perché sono un po' fissato io per queste cose. La Via Francigena è gran parte campagna, monti, giusto? O ci sono anche dei pezzi di asfalto? No, ci sono anche dei pezzi di asfalto. La stragrande maggioranza dell'asfalto sono strade comunque di campagna, dove passa una macchina ogni tanto, piuttosto trovi i carretti che passano, eccetera. Cioè un 60% di natura, quindi di sterrato, di sentieri, okay. Di montagna, sterrati. E dove dormi? Dove mangi? Come sopravvivi? Sai, la Francigena è ormai da considerare come Santiago. Ci sono, ad ogni tappa ci sono tutte le accoglienze, i ristoranti o le okay. di teatro che ti fanno delle cene a basso costo per i pellegrini. Noi abbiamo le credenziali, che è una specie di passaporto che ci portiamo dietro, che viene timbrato ad ogni tappa, mm-hmm. e che, presentando quello, ti fanno degli sconti particolari perché sono convenzionate. Quindi non c'è mai il rischio di trovarsi, appunto, oddio, dove dormo stanotte all'aria aperta? Io non l'ho mai trovato, anche se ho cercato di fare tutta la via senza pormi nessun tipo di... non ho mai preventivato nulla. Io mi svegliavo la mattina all'ora che mi pareva, incominciavo a partire e durante i primi passi telefonavo alle accoglienze della tappa dopo se c'era posto bene, se no telefonavo un altro piuttosto che un altro. Ma okay. Senti, invece il contatto con la moglie a casa com'era? Guarda, è la persona che mi è mancata più di tutte. Non veramente mi ha creato un ulteriore rapporto fra me e lei, straordinario, veramente straordinario. La sentivo la mattina e alla sera alle 18. E la mattina io, quando partivo, le telefonavo e facevamo telefonate da mezz'ora a tre quarti d'ora, in cui le trasmettevo quello che stavo provando, le dicevo che cosa stavo vedendo, è stato bellissimo. Era Maurizio, la mia coach. Per continuare. Sì, è stata la mia coach, perché in momenti di difficoltà, perché chiaramente ci sono stati, un cammino come questo è da considerare una metafora della vita. Mm-hmm. Ci sono degli alti, dei bassi, e lei è sempre stata quella che mi ha tenuto in equilibrio. Mi hai fatto venire voglia di andarci. Senti, mi consigli una lettura, sì, magari, per conoscere meglio la via? Guarda, c'è un libro appositamente fatto da Torre di Mezzo, che è quella che ha, certo, in mano un po' tutti i cammini, che indica perfettamente tutte le tappe, okay, va bene, allora tecnica, eccetera. Mi faccio una ricerca. Maurizio, ti devo salutare, ma ti ringrazio molto per la storia, questa chiacchierata molto bella. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te. A presto. Grazie, ciao. Mille. Ciao, ciao, ciao. Si intitola Da un punto a un altro la puntata di oggi, e la storia di Maurizio ci ha spiegato bene da che punto è partito e dove è arrivato, perché di fatto lui è partito dal San Bernardo ed è arrivato a Brindisi, cioè si è fatto tutta la via Francigena, che sono 1750 chilometri. Poi però in realtà si è capito che il punto a cui è arrivato non era solo un punto fisico, non era solo la città di Brindisi, ma era un punto che appartiene più alla vita privata, alla vita intima sua, ed è quello che lui probabilmente spronava a fare a chiunque avesse voglia di percorrere un percorso come questo. Ora ci ascoltiamo Le Borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui una storia che parla da un punto a un altro. Linee d'ombra. Grazie al nostro Mauro Pescio abbiamo ormai una sorta di rapporto di elezione con i detenuti del carcere di Padova, grazie a Ristretti Orizzonti, che è quel magazine, quella rivista che viene redatta all'interno del carcere direttamente dai detenuti. Lui li conosce da tempo, conosce Ornella da qualche tempo, che è insomma, l'anima di Ristretti Orizzonti. Ogni tanto va là e torna con delle storie, e questa è una di quelle storie che comincia così. Vedi Mauro, sembra facile descrivere alcuni eventi di una persona privata della libertà personale, ma credimi, non è così. I trasferimenti, ad esempio, sono delle vere e morbose torture insensate. Nel mio caso posso dirti, essendo un detenuto dell'alta sicurezza, difficilmente in passato mi hanno comunicato prima in quale istituto sarei stato collocato, per un semplice motivo: ordine e sicurezza. Ecco, queste sono le parole di Giovanni, che è un uomo condannato all'ergastolo molti molti anni fa, che sta scontando la sua pena nel carcere di Padova, appunto. A Padova è entrato nella redazione di Ristretti Orizzonti, come vi dicevo, dove attualmente ricopre il ruolo di redattore, e ha intrapreso un percorso che gli ha fatto mettere in discussione il suo passato e tutti i suoi errori. Mauro ha raccolto una sua testimonianza in cui racconta come funzionano gli spostamenti di un detenuto, in una puntata che si intitola Da un punto a un altro. Questa è la sua storia, è la storia di Giovanni. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il detenuto che deve essere tradotto viene messo in una celletta che non è più larga di un posto sedia, dove non puoi nemmeno grattarti il naso da quanto è stretto. Io, per esempio, che sono di corporatura robusta, ho avuto sempre dei veri problemi. Era come mettere una sardina in scatola, anche se sai che non ci entra. La maggior parte delle traduzioni sono senza un vero motivo, ma la direzione del carcere ha il potere di decidere un trasferimento in qualsiasi istituto e in qualsiasi momento. Quando un detenuto viene trasferito dalla Sicilia in Lombardia, significa che molto probabilmente vedrà la sua famiglia, se la vedrà, una volta all'anno, sempre che si possa permettere la cifra del viaggio, per non parlare dei giorni di lavoro che magari perdono i familiari per raggiungerlo. Quindi, se non hai questa forza economica, rimani lontano dai tuoi cari per anni e anni. Magari finisci la pena senza avere mai fatto un misero colloquio e senza vedere neanche i tuoi figli, se hai la fortuna di averne. Tutto questo spesso genera nel detenuto un aumento dell'aggressività, perché non trova una logica. Ma torniamo a me. Io sono in carcere dal 1996 e ne ho fatti tanti di trasferimenti. Io, quando andavo via da un carcere per entrare in un altro, mi sentivo come una persona che aveva perso un punto di riferimento. Mi trovavo sballottato da un carcere all'altro senza capire il perché. Ma il punto, però, era un altro. La mia famiglia, che sentivo solo nel colloquio telefonico, mi chiedeva: «Ma come mai ti trasferiscono sempre?» E io non sapevo cosa dire. Inventavo delle scuse e dicevo: «Per lavoro, per la scuola». Che cosa potevo dire, visto che non lo sapevo? «Perché il carcere è troppo pieno», dicevo loro. Il brutto è che capivo che soffrivano per colpa mia. Io dicevo loro di stare tranquilli, che stavo bene, ma dentro di me avevo tantissima rabbia. Andavo avanti con la forza della disperazione, sapendo di stare dentro a un sistema che stritolava, oltre a tutto il resto, anche ogni attività familiare, anche ogni affettività. Quando vieni trasferito, poi, lasci amicizie che in qualche modo nascono, perché magari sei stato in quel posto per diversi anni, anche se sono tutte amicizie transitorie. E poi ogni istituto ha le sue regole e quindi mi dovevo riorganizzare tutto. E quando dico tutto, intendo dire davvero tutto. In alcune carcere puoi avere i vestiti che vuoi, in altri no, ad esempio. Una cintura, un modello di scarpe, un giubbino, un pantalone per alcuni va bene, ma per altri non è consentito. E poi ci sono i cibi che ci possiamo comprare. Il formaggio deve essere del tipo duro e non morbido per alcuni e il contrario invece per altri. È un casino che raccontarlo nessuno ci crede. Sembriamo dei pazzi incasinati. Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre: manca poco, Maria. Che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme. Anche in questo istituto di pena, che dovrebbe essere l'eccellenza per certi aspetti, ci sono a volte dei grossi disagi. Spesso ci troviamo a fare delle battaglie per avere un paio di scarpe, ma anche questo io lo trovo insensato. Io sono in carcere perché ho sbagliato e devo capire il mio errore, devo domandarmi come mai mi è successo quello che mi è successo, da dove è arrivato il mio scivolamento, perché mi sono incasinato la vita, non per lottare per un paio di scarpe. Quello che voglio dirti è che le persone sbagliano e che non tutti abbiamo la stessa capacità di riflettere sui nostri errori. E io, malgrado tutto, sono uscito da una fossa in cui mi ero messo così in profondità. che ci volevo morire, che la fatica fatta ne è valsa la pena, che quello per cui adesso faccio in qualche modo mi porta sempre di più verso un cambiamento. Io voglio dirti che quel ragazzo che ha sbagliato tanto non esiste più da un sacco di tempo. Adesso trovo più giusto alzarmi la mattina e dedicarmi a qualcosa di utile. Capire che si può migliorare mettendoci anche del mio, soprattutto, basta solo avere la forza di farcela. Un filosofo scrisse: l'uomo può fare come vuole, ma non ciò che vuole. Quindi dobbiamo essere tutti un po' più responsabili se vogliamo cambiare un pochino. È giusto che io paghi la pena per cui sono stato responsabile, ma che sia una pena dignitosa. Capisco che purtroppo sono questioni difficili da spiegare, ma sono certo che quando ritornerai magari ne parleremo meglio. Per il momento sono felice di averti raccontato alcuni aspetti della mia detenzione, caro Mauro. E sai perché? Semplicemente perché non sto scrivendo a un giornalista, o a un magistrato, o ad altri funzionari. Scrivo ad una persona che vuole capire e spiegare come sono alcuni aspetti o eventi, un uomo che usa lo sguardo diverso che dà voce lì dove altri si fermano sulla porta. La vita è fatta anche di incontri ed io non sono più fermo alla fermata dell'autobus ad attendere. Adesso ci salgo volentieri e con tutta la volontà. Quando posso dare il mio piccolo contributo, lo faccio, perché sono consapevole che per cambiare c'è bisogno di partire da un punto per raggiungerne un altro, partire da se stessi per arrivare agli altri. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave behind turning. Cast some light, it'll be alright. Cast some light, it'll be alright for now. Crosses alone, heavy on your shoulders. The sirens inside. Cast some light and you'll be alright. Cast some light and you'll be alright for now. Crosses all over the boulevard. Crosses all over the boulevard. Crosses all over the boulevard. Crosses all over the boulevard. Streets outside your window overflow. People noi ringraziamo moltissimo Giovanni per averci raccontato questa storia tramite Mauro. Ovviamente Mauro è stato a Padova, è entrato ormai, è quasi diciamo un membro onorario della redazione di Ristretti Orizzonti, e ha incontrato Giovanni e Giovanni gli ha scritto questa cosa e noi lo ringraziamo per averla scritta Mauro e per averci permesso di leggerla e raccontarla a voi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con una storia dei vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Non solo le case, ma i mondi che stiamo esplorando grazie ai diari della quarantena che abbiamo cominciato a raccontarvi da ormai un mese e mezzo a questa parte sono veramente incredibili. Dopo le case, dopo i mezzi di trasporto, dopo le persone che osservano gli animali che si muovono nel loro giardino, oggi vi raccontiamo la storia di Floriana. Floriana lavora nella grande distribuzione ed è quindi una delle persone che ci permette sostanzialmente di continuare a poter mangiare, comprare prodotti per la casa, comprare tutto quello che ci serve in questi giorni in cui siamo in casa o comunque ormai diciamo a singhiozzo possiamo uscire. Ecco, per la prima volta forse io sicuramente, ma spero anche voi, potete sentire la voce di quelli che stanno dall'altra parte delle casse, dall'altra parte degli scaffali del supermercato e che delle volte si ritrovano anche loro sorpresi dal fatto che tutti hanno comprato la carta igienica, che tutti hanno comprato l'alcol e loro non l'avevano previsto e quindi devono rimboccarsi le maniche e lavorare. Parlare della mia quarantena può sembrare molto più semplice di quanto si immagini, ma ahimè non è così. Faccio parte di quella categoria considerata fortunata. Ho un lavoro e soprattutto lavoro e lavorerò per tutto il tempo della durata di questa brutta faccenda e per questo non mi devo lamentare. Almeno è quello che mi sento dire da chi purtroppo naviga a vista e probabilmente verrà inghiottito da qualche tempesta fiscale a breve. Ma torniamo a me. Le mie giornate scorrono quasi uguali a quando questo era un mondo più o meno libero. Anzi, vi dirò, c'è meno traffico e il sole pare splendere di più. Sono responsabile degli industriali di una grande insegna della grande distribuzione. Latte, farina, caffè, acqua, lievito. Tutti quei beni che sono considerati di prima necessità, insomma. E vi posso garantire che mai, almeno da quando io faccio questo lavoro, e anche a detta dei miei colleghi, una situazione del genere si è presentata. Nessuno era pronto, nessuno sapeva che sarebbe durata così tanto e nessuno avrebbe mai immaginato che per lavorare fra gli scaffali bisogna prima munirsi di tutta una serie di precauzioni che ci proteggono dal contagio o quel che è peggio tutelano i clienti dal nostro essere positivi. Insomma, tutte le regole sono cambiate, ogni gesto è ponderato ed essere all'altezza è molto dura. Così questi giorni di quarantena per me sono un peso pesantissimo. Mi sveglio quando il resto dell'Italia dorme in lenzuola di flanella calde e profumate di ammorbidente per raggiungere il mio posto di lavoro. Quando ci arrivo c'è già un bel bilico di merce che mi aspetta e che dovrà essere rimessa sugli scaffali in sicurezza. E poi ne arriverà un altro e un altro ancora, zeppando ogni pertugio e mandando in tilt tutte le mie connessioni cerebrali e anche quelle dei miei colleghi che sono sfiniti come me. Come mai, vi chiederete? La risposta è che siamo in un momento di forte turbolenza e azzeccare quello che la clientela andrà a colpire riempiendo i cartelli in numeri in serie dello stesso prodotto, manco fosse la fine del mondo, è molto difficile. Mi sono sentita dire di tutto, sono tutti presidenti, avvocati, trasportatori, direttori, medici, virologi, vigili e poliziotto pronti a difendere gli indifesi e il loro diritto a fare il pane in casa. Addirittura sono stata accusata di nascondere la merce in magazzino per poi distribuirla ai pochi eletti che sono i miei colleghi. Quando il mio turno finisce, torno a casa stanca e insoddisfatta di vivere circondata da persone che non sanno gestire la paura e loro stessi. E credetemi, la fatica fisica non c'entra niente. Sono fortunata? Sì, certamente. Sono felice? No, per nulla. Sono in quarantena? Non fisicamente, ma è come una prigione. Yeah. Grazie alla storia seriale che vi stiamo raccontando e grazie al racconto che Irene ha fatto a Mauro, stiamo capendo veramente tantissime cose. Stiamo capendo forse poco della malattia, come tutti direi, ma stiamo capendo quanto sia grave, quanto sia complicato quello che accade intorno, soprattutto se sei una donna di 48 anni, se sei incinta per la seconda volta e tuo figlio Giovanni è a casa di tua sorella da un mese praticamente e quindi non vede né te né tuo marito da un mese, anche se voi due siete ritornati a casa, perché adesso Irene è tornata a casa con suo marito, ad esempio ha problemi a fare i controlli, perché trovalo un ginecologo che voglia farti un controllo se tu hai un tampone magari negativo ma tuo marito ancora non ce l'ha. Insomma, già la situazione era complicata di per sé, già si sono ammalati entrambi di Covid-19 e in più c'è una gravidanza che sta per terminare, sta arrivando alla fine e le cose si complicano. Senza voler passare davanti a nessun altro, ci mancherebbe. Non è che penso che la mia situazione sia diversa da quella di un'altra persona, però cioè, io c'ho un'urgenza, ce l'ho, ecco, ora con la gravidanza a questo punto, cioè quello e riprendere il nostro figlio, diciamo, sono due punti un pochino delicati, ecco, per noi. Da quando siamo tornati a casa, anche se non mi sento del tutto ristabilita, la mia attenzione è tornata su mio figlio, da mia sorella, e sull'altro bambino che porto in grembo. Per prima cosa ho smesso tutti i farmaci, a parte l'eparina e il cortisone che mi serve per scongiurare il rischio di trombosi, che incinta al settimo mese è ancora più evidente. Ma soprattutto ho bisogno di fare i controlli. Ho fatto molta fatica ad avere figli da giovane e ho 48 anni oggi, sono in un'età ancora più critica per affrontare una gravidanza, per questo avrei bisogno di controlli. A me, io non faccio controlli da tanto, non ho fatto la curva glicemica, non ho fatto ecografie, non ho fatto niente. È venuto una volta il ginecologo lì a malattie infettive, chiaramente con gli strumenti che erano a disposizione lì, che non sono gli stessi che c'è, certo, in maternità. E quindi ha fatto un controllo rapido, per fortuna c'era il battito cardiaco, ma proprio le cose base. Con il ginecologo siamo rimasti d'accordo che appena avesse avuto l'esito dei tamponi, se fosse risultato negativo anche Francesco, avrei dovuto aspettare 14 giorni e poi avrei dovuto chiamarlo per andare a farmi visitare in maternità. Giustamente loro si accertano che non entri l'infezione nel reparto maternità, ma i tempi per me si allungano molto pericolosamente. Oltre a questo problema, che per me comincia a diventare impellente, c'è anche il fatto che da più di un mese nostro figlio Giovanni è lontano da casa e ancora non sappiamo quando potrà tornare a stare con noi. Io e Francesco siamo ancora convalescenti, dunque molto deboli, ma Giovanni non riesce a farsi una ragione del fatto che siamo costretti a stargli lontano. Ci vediamo in videochiamata tutti i giorni e tutti i giorni lui ci domanda se gli sappiamo dire quando potrà tornare da noi. Non so più cosa inventarmi per distrarlo e mi manca moltissimo. Soprattutto mi dispiace non potergli dare delle certezze. Il babbo e la mamma sono il centro per un bambino di 8 anni ed è per lui inspiegabile che proprio il babbo e la mamma non abbiano risposte alle sue domande. Io poi alla lunga non sono nemmeno brava a mantenere un segreto. Tutto quello che posso dirgli è che continuiamo a telefonare per avere risposte, nella speranza di ottenere qualcosa al più presto. È già tanto, se poi ne deve passare un altro per la burocrazia, per i protocolli, per i rimbalzi, perché telefona di qui, telefona di là, no, l'orario non è questo, a quell'altro, basta. Davvero per me è quasi un sollievo pensare che tra due giorni, nella puntata di venerdì, sentiremo Irene, la sentiremo al telefono per sapere come sta adesso, quanto manca alla fine della gravidanza, come sta Giovanni, come sta suo marito, insomma, ci siamo davvero affezionati alla sua storia. Grazie a lei per avercela raccontata, grazie a Mauro per averla raccolta, grazie ad Anita Panizza, a Paolino Corleoni e a Luca Micheli. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma. Voi continuate a mandarci le vostre storie di confine, le vostre storie che hanno a che fare con una linea d'ombra, e mandateci se volete anche i vostri diari dalla quarantena, noi li prendiamo e ci facciamo una puntata. lineedombra@radio24.it, altrimenti riascoltateci tutti i giorni o in podcast quando volete. Ora la linea al GR, ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!